colore sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera cari amici, buonasera, bentrovati nella nuova puntata dell'anno di Rossella Tiziana e Leandro, ciao! Buonasera a tutti, eccoci tornati dopo le feste natalizie, dopo il Capodanno, eccoci tornati anche noi. È il 19 gennaio 2015, noi parliamo dalla Maison de Culture de Saint-Gilles. E questa è la trasmissione I colori dell'anima. Siamo una delle tante equipe dei colori dell'anima da Radio Alma. E siamo Tiziana, Rossella, che però è malata e che quindi ci sta ascoltando da casa, e le facciamo tanti auguri di pronta guarigione. Ciao Rossa, riprenditi presto! E poi c'è la voce maschile che non manca mai, o quasi, è il nostro Leandro. Ciao a tutti. Oh, la nostra voce calda della radio. Buon anno, dai che si ricomincia, qua a Bruxelles nevica, piove, fa tutte cose insieme. Sì, sì, buon anno, insomma siamo già a metà gennaio, anzi l'abbiamo oltrepassata la metà gennaio. Noi sempre in ritardo, Leandro. Noi veramente sempre in ritardo. Sempre, ovunque, anche non volendo, noi arriviamo tardi. E anche in questo caso questa ne è una dimostrazione. Comunque, noi, a noi c'è permesso, quindi vi diciamo buon anno. Vi chiederemmo come avete passato le feste, come avete passato queste vacanze. Ce lo dovete scrivere sulla nostra pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro on air. Anzi, Rossella, virgola, Tiziana e Leandro on air. Non sbagliate. Mettete I like e poi ci scrivete che cosa avete fatto in queste vacanze, cosa avete fatto di bello. Oppure, oltre che alla pagina Facebook, potete chiamare allo 02 345 2656, naturalmente dal Belgio. Se invece chiamate dall'Italia, dovete mettere il prefisso 0032 invece che lo 0. Oppure potete mandare sms alla 0486 941 29, 0486 941 29. Eccolo là, ci risiamo come al solito. E vabbè. Quindi mi raccomando, scrivete, diteci che cosa ne pensate, cosa ne pensate della trasmissione che faremo. Oggi è una trasmissione tutta particolare, si parla di radio, niente poco di meno che di radio. Ma lo facciamo in modo un po' particolare, noi che lo facciamo da soli, noi ce la cantiamo, noi ce la suoniamo. Abbiamo un grande ospite, anzi una grande ospite. Un'ospitessa. Insomma, questa me la sono lanciata così sul momento, scusatemi, me ne sono pentita mentre la dicevo. Vabbè, pazienza, sono i residui delle feste, delle troppe mangiate. Vero, Leandro? Bevute. Sì. Ma questa puntata vogliamo anche dedicare qualche canzone a qualche grande cantante italiano, e non solo, che ci ha lasciato recentemente nell'anno passato. Quindi sarà una puntata bella intensa. Sì. E allora io direi che potremmo anche, vogliamo dire qualcosa in più su questo ospite prima di lasciarci, prima di lanciare la prima canzone? E diciamolo! Ma stavolta dai, diciamo soltanto che ha i capelli lunghi, quindi una signorina, come dicevamo, viene anche lei, diciamo, dal nostro bel paese, però stavolta non è una siciliana. È una abruzzese, là dove si mangia e si cucina bene. Dice, dov'è che non si mangia e si cucina bene in Italia? Non lo so, da nessuna parte. L'Abruzzo infatti è buono, mangia bene. E questa è la cosa importante per Leandro. E ci aiuterà in questo cammino sulla radio, sul mondo della radio, perché anche lei ha fatto qualche esperienza di questo genere. È una collega, ma non una concorrente, diciamo che non fa radio qui a Bruxelles, ma lo scopriremo tra un pochino. Però sicuramente, in ogni caso, è più brava di noi, quindi ascolteremo ci con insegnerà attenzione qualcosa, sì, carpiremo tutti i suoi segreti, così poi diventeremo più bravi e la trasmissione verrà ancora più carina dopo questa. Innanzitutto io vorrei per ora lasciare un po' di suspense e lanciare la prima canzone, che come diceva Leandro è dedicata all'artista che ci ha lasciato più di recente, il 4 gennaio 2015, si è saputo della morte di Pino Daniele. Quindi volevamo un attimo lanciare Amore senza fine per diciamo in commemorazione e onorare la sua memoria, di questo grande artista che ci sarà sempre vicino. Ecco voi Pino Daniele, Amore senza fine. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Eccoci con i colori dell'anima alla Maison de Culture de Saint-Gilles. Siamo io e Leandro, Rossella purtroppo è malata, come dicevamo. Abbiamo appena cominciato, abbiamo lanciato la prima canzone. Pance calde, tanto miele. Rossella, riprenditi, abbiamo bisogno di te. La trasmissione non è la stessa senza di te. E quindi dicevo, abbiamo appena lanciato la prima canzone. Per chi si fosse connesso, mi raccomando, scriveteci, l'ho appena detto, scriveteci sulla pagina Facebook Rossella virgola Tiziana e Leandro Neir, oppure scriveteci ai nostri numeri. Leandro, su, di il numero, ti piace tanto, lo so che ti piace dire il numero con la tua voce. 0486 94 11 29, 0486 94 11 29, ma soprattutto su Facebook Rossella virgola Tiziana Leandro Neir. Sì, sì, sì, infatti. Allora, innanzitutto noi però vorremmo iniziare a entrare nel vivo della discussione. Abbiamo parlato di un ospite, abbiamo parlato del fatto che oggi si mangia bene. L'unica cosa, noi parleremo di tutt'altro, però oggi in Abruzzo si mangia bene. Tanto per cambiare, dovete sapere che abbiamo conosciuto questo ospite da poco. Abbiamo iniziato mangiando. Abbiamo iniziato a parlare un po' di lei, di che cosa fa, dei suoi interessi. Ho iniziato a parlare io con lei. Dopodiché arriva Leandro e la prima domanda che le fa: di dove sei? Dell'Abruzzo. Ah, ma in Abruzzo si mangia bene, che cosa sai cucinare? E allora dici domanda. Che si mangia in Abruzzo? Prima domanda, che si mangia di Aspetta, buono? Aspetta, prima presentiamola, che modi sono? Ah, scusa, è vero, scusa. Quale padrone come di casa? Ti chiami? Allora, ecco. Scusate che nel frattempo stavo mangiando un cajanit, perché insomma venendo dall'Abruzzo ne ho portati un po', quindi brava. Mentre voi ne parlavate io mangiavo. Buono, ma a posto siamo. Allora, innanzitutto diciamo che ti chiami Sandra. Ciao a tutti, grazie Ciao, per avermi per ospitarmi questa sera qui in radio con voi. Devo dire che siete energizzanti, sì, sì, di là, energetici. Ecco, sì, proprio di là ci sono le ola che arrivano. Trasmettete un sacco di energia, sì. Bene, ma io ho parlato un po' con te e mi hai dato la stessa impressione, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, che in radio è importante, direi. Sì, proprio seguire l'onda. Sì, sì, sì. Allora, Sandra, abbiamo detto che oggi parleremo di radio. Perché? Perché proprio con te? Proprio con me, perché l'altra sera, mentre giustamente stavo mangiando e ci siamo conosciuti, io ho sentito mangiando giusto per rimanere in tema. Sì, ho sentito una vocina che diceva radio e si sono drizzate le antenne subito immediatamente, perché sì, sono qui perché anch'io ho condotto per 5 anni in Lussemburgo un programma radiofonico un po' come voi, dedicato agli italiani che vivono e che si trovano in Lussemburgo in lingua italiana, su una radio Latina, che faceva programmazione portoghese, ma che una volta a settimana ospitava poi invece un'equipe di ogni paese. Noi eravamo ovviamente l'equipe italiana per fare il programma in lingua, e quindi mi ritrovo un po' in quello che voi fate qui, e parlando insomma ho sentito che anche voi avete più o meno questo entusiasmo e questa voglia di raccontare l'Italia qui in Belgio, come noi avevamo voglia di raccontare l'Italia lì in Lussemburgo. E quindi ci siamo trovate, sì. Ci siamo trovate a nozze. Sì. Non era un banchetto di nozze, ma noi ci siamo trovate a nozze. Sì. Sì. E quindi che cosa ti ha portato a fare radio intanto lì in Lussemburgo? Allora, il Lussemburgo mi ha portato a fare radio, la radio stessa. perché venivo già da un'esperienza italiana su un'altra radio che facciamo finta di essere professional, non diciamo il nome. No, no, lo diciamo, non si può una dire. Radio nazionale, e comunque sentivo questa voglia di continuare, perché appunto poi ho dovuto troncare perché mi sono trasferita a Lussemburgo per lavoro, però mi portavo questa voglia, questa emozione che comunque la radio trasmette, avevo voglia di continuare a coltivarla, e quindi ho cercato un po', ho cominciato a chiedere se c'erano possibilità. Comunque, insomma, quando si va all'estero si cerca sempre di riportare la propria lingua, la propria cultura, e quindi appunto mi è stata data questa opportunità grazie ad un gruppo che già faceva radio e con il quale appunto mi sono inserita e integrata. Devo dire che è stata veramente una bella esperienza. Loro continuano tuttora e il programma si chiama Notte Italiana ed è su Radio Latina in Lussemburgo. E quando la fanno? Ogni giovedì. Ah, vabbè, allora sì. Ragazzi, non ci fanno concorrenza. Allora, vi diamo il permesso il lunedì, allora tutti a casa ad ascoltare I Colori dell'Anima, il giovedì tutti a casa ad ascoltare. Tutti in Lussemburgo. Tutti in Lussemburgo ad ascoltare Notte Italiana. Avanti, si può fare, diciamo. E intanto ci scrive la nostra cara Rossella. Oddio, che sta succedendo? Fall'eco. Rossella ci dice che vi ascolto, forza ragazzi! Ciao Rossella! Ci trasmette la sua energia! Ciao! Ciao Rossella! Sì, te la faremo conoscere, è una bomba di energia pure lei, guarda, anche. Noi non siamo niente in confronto a lei. Allora, dicevamo... E cosa spinge a fare la radio? Non si sa, è una cosa innata che uno sente e a un certo punto ti ritrovi in queste mura e a parlare dietro un microfono e così hai paura sempre che il tempo non basti, hai paura sempre di fare qualche gaffa, che sicuramente fai, ma anche quello è il bello della diretta, però è... Poi alla fine ci sei e nonostante appunto gli anni passino, perché ormai sono già 2 anni che non faccio più radio, eccomi qua che mi ritrovo a raccontare di quando la facevo, quindi comunque un filo conduttore che non si spegne mai. Infatti, ma tu hai fatto 5 anni, ci puoi fare scuole dopo scuole, io scherzavo prima, assolutamente però in 5 anni noi siamo novellini. Assolutamente no, le gap che abbiamo fatto, assolutamente no, la radio è un continuo, poi come, ecco, il bello della radio è che non vedi chi ti ascolta. Quindi alla fine tu ti fai una chiacchierata, però in quella chiacchierata può uscire. E non sai nemmeno tutto. Se qualcuno ti ascolta. Noi ce lo chiediamo sempre. Ce lo chiedevamo anche noi. Poi quando arrivavano i messaggi, si dice così, quando poi facevamo le gaffe, gli errori grammaticali, i francesismi, queste cose qui. Allora ti arriva il messaggio e tu dici, ups, qualcuno ci sta ascoltando. Oh, che bello. Era meglio che non scrivevate. Insomma, se dovevate scrivere questo, sì. Insomma, me la potevate risparmiare. Ma no, noi stiamo scherzando. Vogliamo che scriveteci, fateci sapere che siete online, perché sennò ci sentiamo soli, tristi. Mi raccomando, non ci lasciate soli. Allora, stavamo dicendo, hai fatto radio in Lussemburgo e dopodiché ti sei trasferita. Sì, mi sono trasferita qui a Bruxelles per motivi di lavoro e quindi ho dovuto lasciare a malincuore, l'ho lasciata in buone mani perché l'equipe continua, sono ancora in contatto con loro, però ovviamente non posso essere presente il giovedì sera dietro i microfoni, quindi li ascolto quando posso in streaming, però ecco, non c'è più la presenza fisica, però io me la porto dietro e continuo sempre a chiedere di loro. Infatti l'idea era proprio di fare questo match live Bruxelles Lussemburgo, quindi portare il programma che seguivamo noi lì. E che cosa facevate durante la vostra trasmissione? La nostra trasmissione, noi avevamo un obiettivo, poi raggiungerlo no, questo è tutt'altro discorso, perché anche noi eravamo molto amatoriali, e rappresentare diciamo gli eventi, cercare gli eventi della settimana e quindi dirli in radio per poter coinvolgere gli italiani appunto che vivevano in Lussemburgo, quindi dare un'agenda degli eventi e in questo dare anche informazioni a seconda dei avvenimenti insomma della settimana. Ho capito, quindi informazione per gli italiani in Lussemburgo. quello che possono essere mostre, esposizioni, sì, concerti, esatto, tutto, attività culturali, presentazione di libri e tutto quello che appunto si organizzava nella settimana, noi lo preannunciavamo, ma non solo poi italiano, anche comunque straniero, Lussemburgo, qualche volta facevamo anche dei riferimenti a Bruxelles per chi appunto volesse poi fare il fine settimana fuori. Ah certo, perché effettivamente Lussemburgo, Bruxelles comunque... io non l'ho mai visto, non sono mai stata a Bruxelles, ti chiederò un po' di informazioni perché voglio andarci, però so che tante persone comunque viaggiano. Sì, sono in macchina un paio di ore, dipende da porta a porta, e in treno 3 ore perché il treno fa tutte le fermate, quindi lì è un po' più lungo. Un po' più lungo col treno. Ho capito. E quindi non avevate di solito ospiti? Sì, noi avevamo ospiti, e quando si organizzavano i festival, c'è un festival che si organizza ogni anno vicino a Lussemburgo, in Francia, e chiamavamo i direttori e facevamo delle interviste, la presentazione dei film, oppure se presentavano dei libri, cercavamo sempre di avere degli ospiti comunque. Ed era un lavoro, perché la radio sembra così, ci ascoltano e noi scherziamo, e quindi però dietro c'era tutto un lavoro di preparazione, certo, che comunque sì, insomma. Sì. Noi ci mettiamo almeno 10 ore di lavoro ogni giorno per preparare. Sì, ogni giorno, sì, prima della trasmissione. Il giovedì era il giorno esterico, dovete proprio. Dovete vedermi tutto sudato appena entro, proprio, sì, morto, distrutto. Sì. Sì, noi prepariamo tutto con molta attenzione, sempre ore e ore di preparazione ogni volta. Allora, più o meno. Cosa? Più o meno. Sì, più o meno. Sì, insomma, stavo scherzando, sì, si capisce, penso che stavo scherzando. Allora, io vorrei interromperti un attimo e interrompere la nostra conversazione, che continueremo tra pochissimo, e lanciare la nostra seconda canzone, fatta una grande canzone molto molto conosciuta, che ha accompagnato la nostra generazione penso veramente per molti anni, di un altro artista che ci ha lasciato lo scorso anno e che è Mango, e la canzone che vogliamo lanciare è una delle sue più belle, Oro, ed è tra l'altro quella che cantava proprio quando ha avuto il malore durante il concerto. Ecco voi, Oro di Mango. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Eccoci ai colori dell'anima con la nostra amica Sandra, che è una nostra collega radiofonica che faceva una trasmissione in Lussemburgo fino a 2 anni fa, e con cui stiamo chiacchierando piacevolmente sul bel mondo della radio. E quante emozioni dà il fatto che non ti lascia mai andare via una volta che ci sei entrato, ti ricattura sempre. Lei ne era uscita da 2 anni e ora vuoi o non vuoi, per un puro caso, è così, ecco che si ritrova in radio di nuovo. Dall'altro lato, come ospite stavolta, non come presentatrice, e quindi può condividere con noi un po' questo amore per questo mondo un po' particolare che non tante persone in realtà alla fine conoscono da questo lato qua, diciamo. Ma prima di tutto vogliamo un attimino tenervi aggiornato con una richiesta per te, Sandra, da parte della nostra grandissima Rossella, di chiede Picciotti, che saremo noi. Chiedetele se ha scoperto a Bruxelles un posto dove fanno gli arrosticini. Voglio conoscerla, già mi piace. Viva l'Abruzzo! Allora, questa storia degli arrosticini gira un po' per le piazze, ne ho già sentito parlare. Non so esattamente dove lo facciano, però so che ci sono dei gruppi che si organizzano per fare serate all'arrosticino. Attenzione, attenzione. Abruzzesi in ascolto, abruzzesi in ascolto, fateci sapere dove fate gli arrosticini. Infatti, non solo stavo dicendo, non solo gli abruzzesi, hai ragione, fateci sapere a tutti. Sì, quindi, c'è un giro di arrosticini che fanno, l'ho sentito già nominare, dicevo, però non hai scovato il covo. Il covo ancora no. Ancora no, i fornitori, diciamo. E allora, ragazzi, ai fornitori, ancora meglio. Si mangia abruzzese da qualche altra parte, che tu sappia, qua? Qui ci sono dei ristoranti, cioè ci sono dei ristoranti proprio abruzzesi. E ce ne sai consigliare qualcuno? Si può dire? No. Non si può dire, forse no. Ma ci sono, Poi ce lo dici ve lo posso dire, nei paraggi di Saint-Gilles ce n'è uno, che pare sia storico, insomma, sono andata ed effettivamente è abbastanza buono, sì. Oh, Okay, ok. Che si mangia abruzzese oltre agli arrosticini? Ma noi si mangia molta carne, perché comunque io sono del lato montano, poi c'è anche il lato marino, e però appunto come dicevo i caggianizzi sono il dolce tipico che si mangia e poi anche si cucina. Da noi per esempio c'è la tradizione della lasagna, che non è tipicamente abruzzese, però quando c'è una festa, una ricorrenza tipo Natale oppure Pasqua, tutti quanti corrono a preparare la lasagna e si può fare in diversi tipi, quindi comunque questo è il piatto festivo che si usa nelle parti della provincia dell'Aquila. Sì. Bene, bene, bene. Bocca buona allora. Infatti Rossella dice bene, allora li troveremo insieme questi posti. Sì, faremo una bella, Rossella, faremo una cenetta bella tutti assieme, così vi facciamo conoscere. Ma io invece volevo chiederti, qua si parla sempre di mangiare, non c'è poco da fare. Ma anche l'ora però, cioè, questo voglio dire. E fa piacere a tutti, non lo metto in dubbio. Ma io volevo sapere un po' più di te. Non è che non mi piace parlare di mangiare, volevo sapere un po' più di te. Abbiamo detto che sei stata in Lussemburgo, abbiamo detto che sei venuta qua a Bruxelles per motivi di lavoro, ma raccontaci qualcos'altro. Come sei arrivata in Lussemburgo? Hai lavorato, sei stata in Italia prima? Sono state le prime esperienze queste qui all'estero? Hai fatto qualcos'altro? Dici un poco. Allora, diciamo che io sono un'italiana 100% doc, famiglia di italiana, generazione di italiane, non sono figlia di coppie miste, no. Però sì, è stato il lavoro che mi ha portato a Lussemburgo, quindi avevo visto un'offerta, avevo fatto domanda e mi hanno presa e quindi mi sono trasferita. Prima però già lavoravo, avevo già fatto esperienze all'estero. Quella a cui più ci tengo, perché magari anche quella più lontana, è quella in America, dove avevo lavorato in una casa editrice, avevo fatto uno stage in una casa editrice a New York, e di cui appunto bellissimo ancora, ma quanto tempo? Due mesi e mezzo, perché lì dopo i tre mesi ti servono i permessi, e ancora prima avevo fatto altre esperienze all'estero, però diciamo che io sono italiana, cioè non qui è stato il lavoro che mi ci ha portato. Non so se un domani ritornerò in Italia o no, lasciamo, vediamo come vanno le cose. Onestamente ci vorrei. Vorresti tornare dentro di te o vorresti... Oggi 19 gennaio 2015 no, però è oggi 19 gennaio 2015, vediamo sono insomma d'accordo. Perché sono stata in Italia tutte le vacanze e comunque ho respirato l'aria, poi sai quando ci torni anche per vacanze la vedi diversa, la dici ah però... Però non sono una nostalgica, no, cioè sono convinta delle scelte fatte fino ad ora, quindi... Però in futuro chissà, lasciamo le porte aperte. Le esigenze possono cambiare, i desideri pure, quindi tutto è possibile. Poi la nostra bella terra. Sì. Comunque quello fatto la cucina ne risento, questo diciamolo, perché qui non mangio come dovrei. Lussemburgo sì. Come si mangiava? In Lussemburgo anche lì si mangia molta carne e molte patate, però non hanno un piatto tipico vero, però insomma sono bravi nella cucina, perché comunque riprendono un po' da quella francese, visto che è un paese che confina con il Lussemburgo e... ci sono degli ottimi ristoranti in centro. Si mangia bene. Si mangia bene. Anche il pesce in Lussemburgo si mangia bene. Di bello, assolutamente da non perdere per chi va in Lussemburgo. Allora, Lussemburgo arrivi, mezza giornata, hai finito. L'hai visto, te ne puoi ripartire proprio. È vero, è molto piccolo. Come il centro di Bruxelles praticamente. Ecco, sì, qualcosa del genere. Però ha il suo fascino perché architettonicamente è diversa da Lussemburgo, sia le strade che le stradine, e è fatta su più livelli, quindi magari ci sono anche dei giochi di luce e di ombre che durante le varie ore della giornata possono essere abbastanza interessanti per chi ama passeggiare, o anche quando corri che devi andare da un posto all'altro e dici ah, poi ti fermi un attimo e dici ah, però che carino, no, devo andare tardissimo, e non ti soffermi a guardare. Però è una città che presta molto allo sport, alle passeggiate per chi ama andare in bicicletta, e poi non è assolutamente vero che non c'è nulla da fare. Sfatiamo questo mito, perché proprio non è vero. Ecco, diciamolo che tutti, io ho sempre sentito parlare così del Lussemburgo. Sì. È vero, Io posso capire che è così, però posso fare anche il bastion contrario che non è così. Cioè, se dici tutte le cose a favore del Lussemburgo. Ma il fatto che è un centro piccolo comunque ha dei suoi vantaggi, perché è più facile conoscere le persone, è più facile soprattutto mantenere i contatti con le persone, proprio perché le persone sono così, hanno tutti paura che non c'è niente da fare, cominciano a organizzare feste, uscite, concerti, associazioni, cose che nascono. Allora facciamo a casa mia questa cosa, facciamo di là ci vediamo per fare quell'altra. E poi comunque c'è un'attività proprio culturale, essendo piccola ed essendo abbastanza anche interessante come città, perché appunto è l'unico granducato al mondo che è rimasto, è anche più facile, diciamo, contattare le persone, artisti che poi vengono per fare, presentare i loro libri, i loro spettacoli. Quindi c'è un'attività culturale intensissima, ma di tutti i paesi, essendo anche lì un incontro di tutte le nazionalità, ognuno porta i suoi e c'è veramente tanto da fare, ed è facile farlo poi. La stessa multiculturalità che si trova a Bruxelles, però sì, più concentrata in un... Sì, più concentrata, e oserei anche dire, ma questa è una percezione personale, anche un po' più orientata, nel senso che essendo un tipo di città legata al business, poi anche le persone che arrivano magari sono meno, non trovi così facile, lasciatemi dire, fricchettoni, ecco, non è la città dei fricchettoni, però comunque insomma... Sono persone un po' più inquadrate, un po'... più diciamo sì, che difficilmente trovi per strada i pancabesti o comunque persone insomma come che amano proprio la vita di strada. Lì è un po' più ordinato da questo punto di vista, però comunque insomma comunque le persone sono socievoli, sì. Non stressate, quindi gentili, ecco, Lussemburgo manca lo stress. Che bello, questo mi piace. Poi te lo crei tu, perché appunto facendo 3000 cose te lo autogeneri, però perché sei tu che te lo crei, altrimenti potresti tranquillamente vivere senza. Però il contesto non ti porta a stressarti, no. Ah, bene, bene, bene. Leandro, lanciamo la prossima canzone. Scusa, ti interrompo perché mi preme molto lanciare la prossima canzone, che è di un artista, un altro degli artisti che è morto nel 2014, Joe Cocker. Lanciamo una canzone che si lega a questa serata un po' speciale, questa serata in cui parliamo di noi, della radio. E allora lanciamo Tonight di Joe Cocker. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Ancora una volta da Radio Alma, i colori dell'anima. Parliamo oggi di radio e quindi cerchiamo di scoprire i colori che ha l'animo di una presentatrice radiofonica. Attenzione, attenzione, caramba, caramba, carambata, carambata. Da qui c'è qualcuno che forse ci può parlare direttamente dal Lussemburgo. Pronto, oddio, pronto. Abbiamo una sorpresa dal Lussemburgo. Chi parla? Pronto, buonasera, saluti da Lussemburgo, ciao. Ciao. Paola, ciao Paola. Oh là là, che sorpresa. Caramba. Caramba, caramba. In diretta da Lussemburgo, dal quartiere Bel Air di Lussemburgo, perché ce l'abbiamo anche noi un Bel Air. Ebbene, siamo qui sotto un po' di neve a sentire anche Radio Pure da noi stamattina c'è stata la neve, però ha fatto finta, perché poi si è sciolta subito, quindi non ha nevicato ma non si è accumulato. Però il freddo è rimasto. Sì, il freddo c'è. Il freddo c'era. Sì, e sono anche fuori, quindi se trema la voce, oltre all'emozione, anche perché fa un freddo cane. E vabbè, ti riscaldiamo noi, non ti stiamo riscaldando con questa bella voce. Che bella voce radiofonica che c'ha Paola. Bella musica, ragazzi, complimenti. Grazie, Leandro, grazie. Allora, Paola. Paola, allora, come va? E soprattutto, io vorrei sapere, questa bellissima sorpresa cade a fagiolo, perché abbiamo parlato così tanto di radio con Sandra e ci parlava già di te, ci ha parlato dell'esperienza che avete fatto insieme, ma a questo punto a noi interessa sapere com'era Sandra in radio. Paola, ti prego, non vendicarti. Dici un po', perché ora lei... ci ha detto tutto quello che non so cosa vi abbia detto. Ah. Però lei sa quello che vi dirò io. Eccola, sì, sì, va sì, bene. Noi vogliamo sapere com'era dov'è lei la via in radio. Di fuga, dai, non potrò più passeggiare qui a Bruxelles. No, sembra è stata un po' la nostra martire, è la nostra vittima. L'abbiamo tartassata in tutti i modi, però era brava, devo dire. Era la nostra giornalista d'assalto, era quella che cercava gli articoli più interessanti e li trovava, ed era quella che riusciva a riassumere, a spiegare gli articoli in maniera eccezionale. E poi comunque è un mito, nel senso che abbiamo coniato un termine proprio che le appartiene, e si tratta delle cosiddette sandrate. Ho fatto una sandrata ed è rimasto ancora adesso che Sandra non è più con noi, perché poi a Bruxelles chiunque faccia una sandrata viene... Ha fatto una sandrata. Ah, ho capito, è per esempio. per cosa per mi esempio, viene alla mente? Una delle due ci faccia un esempio. Ma Sandra, dillo tu, il nostro primo ministro qui, delle cose un po' così, sai, quando divertenti, ecco, quelli che io chiamo gli errori di ortografia quando si parla. Tipo la villa di Lussemburgo, questi francesi. La villa di Lussemburgo, il semaforo verde per fare una cosa, il via libera, sai, sì. Fosemi. Insomma, quei calchi bellissimi, morivamo dalle risate in diretta, sì, e lì qualcuno doveva parlare, perché non potevi arrivare. Ma il bello è che io ero talmente convinta che neanche me ne accorgevo, cioè a un certo punto loro ridevano, e dicevamo, chi altro ha ridetto, perché ridono, cioè proprio non me ne rendevo conto. Quindi non capivi proprio perché ridevano. Non capivo proprio, e loro stavano proprio con le lacrime agli occhi piegati in due, e io che dicevo, chi altro ha ridetto, e continuavo a parlare proprio. E quindi no, è stata una presenza eccezionale, devo dire, questi anni, e infatti vabbè, noi speriamo sempre che torni, però vi manca infatti vero? Questo stavo dicendo, che appunto gira e rigira sempre in radio, ci ritroviamo in un modo o in un altro, capita sempre che eccoci qua. Sì, ma io l'ho percepito subito questo amore per la radio da quando abbiamo iniziato a parlare, da quando ci siamo conosciute. No, devo dire che mi manca molto, e mi manca molto la radio con loro, sì. Te l'ho detto, Paola, ecco. Scusate, c'è un allarme che sta suonando, me ne vado. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non sapevo ci fossero antifusti a Lussemburgo, pensavo non rubassero le macchine, ma vedo che le cose... Eh sì, infatti parlavamo di una città super calma, super tranquilla, sì. Super serena. Va bene, no, Paola. Noi purtroppo il tempo ci mangia come al solito, questa è una delle sandrate. Il tempo ci mangia, non ti è mai sentito. Comunque sono molto sulla nostra linea d'onda, Paola. La prima volta. Sì, vero, sì. Devi venire in persona anche tu, Paola. Sì, ti invitiamo, ti aspettiamo. Ti aspettiamo quando vuoi. Coincidere. Allora, il tempo un po' fugge. Purtroppo dobbiamo salutarci perché dobbiamo andare alla chiusura, a lanciare ancora una canzone. Ti aspettiamo quando vuoi, avremo il piacere di avervi entrambe come ospiti. Salutaci tutti gli italiani di Radio Latina. Ed entra dentro, che c'è freddo, se nevica, non stare fuori. Mi sto congelando, vabbè, ma comunque grazie di questa chiamata, sono veramente contenta di avervi conosciuti e grazie, ecco, a te. Grazie a internet ci possiamo anche ascoltare reciprocamente. Sì, infatti l'ho detto, non siamo concorrenti, per fortuna. No, non siamo per niente concorrenti, quindi più siamo meglio è. E anche voi siete benvenuti a Lussemburgo in qualsiasi momento, sono solo 2 ore di macchina o di treno, quindi, ma di treno sono di più. Ma... Grazie, io e Leandro verremo, ti faremo sapere, ci farei da cicerone. Perfetto. Va bene, allora grazie Paola ancora. Grazie. E noi intanto, ciao Paola, salutiamo la nostra, ciao, collega del Lussemburgo, mandando un'altra canzone di un altro grande artista italiano che ci ha lasciato da poco, Giorgio Faletti, e il mitico Signor Tenente. Ecco voi. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori, questa era la bellissima Signor Tenente del grande Giorgio Faletti, e parlava di una chiamata urgente. Infatti abbiamo una nostra carissima amica qua che ci sta chiamando, la nostra grande Serena. Ciao Serena. Ciao ragazzi, ciao. Come state? Ciao Serena. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Bene. Come stai? Tutto bene, buon anno in anticipo. Buon anno, buon anno anche a te. Un bacione a Rossella a casa, che poverina è con l'influenza. Sì, sì, sì, ma io so che anche la tua piccolina ha l'influenza. Gli è passata adesso, eh? Ah. Abbiamo fatto 10 giorni di quelli buoni, quindi ora siamo fuori. Sì, ah, bene, bene, bene. Allora un bacino anche a Caterina. Sì, grazie. Cosa ci racconti oggi? Dove ci porti? Allora, innanzitutto oggi vi porto in un posto dove sono stata appunto per queste vacanze natalizie con la mia famiglia, con la mia bambina e mio marito, ed è Merano, in Alto Adige. Allora, innanzitutto, Merano è famosa per i mercatini di Natale, da fine novembre ai primi di gennaio, ci sono questi mercatini che sono effettivamente bellissimi, in queste casette ecologiche, sembrano un presepe proprio, anche i prodotti che vengono venduti, tutti made in Alto Adige, assolutamente. Che bello, io adoro i mercatini. Però Merano non è solo mercatini di Natale, Merano è visitabile in qualunque periodo dell'anno, perché è una città bellissima, molto elegante, infatti anche l'imperatrice Sissi passava l'estate, insomma, o l'inverno, ora di preciso non posso dire, però comunque passava il suo tempo là, il periodo di villeggiatura a Merano, proprio per questo clima temperato che la caratterizza, insomma, dicono ci siano 300 giorni di sole all'anno. Che bello, non lo dire a noi, ti prego, io ho bisogno di sole. Essendo una meta di montagna, comunque effettivamente il clima è eccezionale, si può stare benissimo fuori, io sono andata in pieno inverno, in dicembre si stava bene, poi è bellissima, illuminata di notte, è una cosa splendida. Comunque Merano, vi dicevo, è bella da visitare sia per la città in sé, ma poi per le terme. Le terme sono famose, oltretutto l'edificio è molto particolare perché è una specie di cubo trasparente, quindi pieno di vetrate, da cui si vede tutto il panorama esterno, una cosa molto avveniristica, sicuramente da non perdere. Ovviamente anche lì non posso non consigliarvi dove andare a mangiare qualcosa. Brava Serena, così ci piaci! E così fai felice Leandra. Finiamo sempre lì. Comunque la pasticceria si chiama, no, pasticceria si chiama Koenig, io il tedesco non lo so, quindi non so la mia pronuncia com'è, però dovete prendere la torta Merano di marzapane, cioccolato e qualcos'altro di preciso, non me lo so dire, però qualcosa di sublime, imperdibile, assolutamente. E poi un altro posto dove assolutamente dovete andare è la birreria Forst. La Forst è la più grande birreria, insomma, dell'Alto Adige, e nei pressi di Merano, una cittadina per l'esattezza si chiama Lagundo, c'è proprio la birreria in sé, dove è possibile mangiare. In inverno organizzano la foresta di Natale, la chiamano, con tante piccole casette riscaldate dove si può entrare e mangiare queste specialità, insomma, altoatesine, ovviamente tutte coperte poi da fiumi di birra, insomma, robe così. Quindi questa è una meta che potete tranquillamente fare in un weekend, tre giorni, ecco, adattabilissima a una famiglia. Tutto infatti è percorribile con passeggino, anche Merano stessa, ci sono dei bei sentieri, il sentiero Sissi che porta sino al castello che si chiama, mi sembra, Thomasdorf, insomma una cosa del genere, tutto con percorribile con passeggino. Quindi, quindi ora le tue attenzioni sono particolarmente mirate. Io ormai vado dove posso portare come di porta il passeggino. Quindi collaudato, percorso famiglia collaudato. Collaudato, va benissimo, anche perché poi gli alberghi in Trentino, in tutto il Trentino Alto Adige, quello, sono eccezionali, quindi anche un 3 stelle, ma anche meno, cioè le stelle sono assolutamente sfalsate, qui, nel senso che sono d'altissimo livello, quindi si va sul sicuro. Quindi anche con un 3 stelle. Alto Adige, sì. Benissimo, allora noi anche prendiamo l'occasione per dire ai nostri radioascoltatori che la nostra compagna di viaggio Serena ha un bellissimo blog, Viaggio in Lamponia, dove troverete un sacco, ma veramente un sacco di veramente interessantissimi consigli sui vostri viaggi, e quindi praticamente vi consigliamo di andare, di frequentare questo blog, Viaggio in Lamponia, E così salutiamo anche la nostra carissima compagna di viaggio e dalle un bacio alla piccola Caterina, va bene? Grazie, grazie, un bacione a tutti voi. Alla prossima. A Rossella a casa. Ciao, grazie a te, ciao, alla prossima. Ciao. E noi torniamo in studio. Ecco, e noi torniamo in studio, scusate. Gli ultimi minuti, il tempo ci ha mangiato, come ho detto prima in una mia gaffa. Il tempo vola, mai niente di più vero. Abbiamo gli ultimi minuti di trasmissione e allora non ci dobbiamo dimenticare di chiedere, come al solito, il colore di questa trasmissione, perché dicevo che questa volta abbiamo voluto dare voce al colore di una presentatrice radiofonica molto molto simpatica, molto solare, e allora mi chiedo quale sarà mai il colore che può rappresentare questa trasmissione per lei. Per me, poi lo vedo anche qui proprio nella stanza, non può che essere il giallo. Il giallo, colore di gioia, colore solare, colore del sole. Del caldo. Del caldo. Dell'estate. Dell'estate, che è ancora un po' lontana purtroppo, però aspetteremo. Noi facciamo una bella gettata di giallo dappertutto e creiamo il caldo. E animiamo un pochino la nostra vita col giallo. E i nostri amici qua ci mandano messaggi. Chiara dice: bravi ragazzi. Katia dice: la radio che ho trovato nella spazzatura fa risuonare la vostra voce, la vostra musica in tutta la casa. Bravi, andate forti come sempre. Ciao Chiara, ciao Katia. Ciao ciao ragazzi, ascoltateci, guardate la nostra pagina Facebook, perché ora metteremo anche le informazioni relative alla trasmissione radiofonica Notte Italiana, che viene trasmessa dal Lussemburgo il giovedì, quindi avrete anche un altro appuntamento per la settimana. E salutiamo la nostra ospite con cui abbiamo fatto questa piacevolissima chiacchierata sulla radio. Ciao Sandra, grazie. Ciao, grazie a voi ragazzi. Ciao Sandra, poi si va a mangiare rosticini insieme. Mo se va a magnà. Sì, mo famo qualcosa di serio, mo proprio. Mo magniamo. E noi vi salutiamo con un'ultima canzone, una canzone che vogliamo dedicare a una persona che stavolta non è morta. Per fortuna. Per fortuna, ma gli dedichiamo questa canzone a lei per farle un grandissimo in bocca al lupo. Infatti è una canzone di Arisa e mandiamo in onda proprio la canzone con cui ha vinto Sanremo 2014 e le facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché sarà una delle presentatrici di Sanremo 2015. Quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, al prossimo lunedì con i nostri colleghi e a giorno 2 febbraio di nuovo con noi. E buonanotte e buon ascolto. E grazie ancora Sandra. Okay. Grazie, ciao a voi. Tutti. Ciao. Ciao italiani a Bruxelles. Buonanotte. Ciao a tutti.